Sono solo un drago di cartone e cara non ti sposo più. Io non ti sposo più. Sono solo un drago di cartone, come mio patacca, zivago fumatore. La mia prima volta con una polacca si chiamava Sasha, come un culattone. Io non voglio una gatta da pelare, una palla da biliardo che fa la maratona. Come gatto pardo non sono un polentone, non voglio una cattona rumena col furgone. Sono nudo davanti a un pomodoro, io da domani faccio il pizzaiolo. Voglio una moglie che si chiama Margherita, come l'ape Maya, un'operaia vita. Ma tu fai parte delle santerelline che volano nell'aria come bollicine. C'ho feca pifferaia, mi fai le faccine, perché mi hai tradito col vicino del cortile. Io domani salgo su, la la la la la la. Anche la pisciata diventa una cagata se pisci controvento con la mia fidanzata, che fa la permanente come una segretaria. E domani c'è lo sciopero virtuale, ho preso appuntamento dallo stesso parrucchiere. Vuole fare il prete col naso alla francese, gli spacco il diffusore in una tenda canadese. Ti è venuta la febbre suina, come una zabetta fai la passerella. Tu non l'hai mai fatto un bucato in cantina, hai preso 20 kg come Pina la Becchina. Ho le vertigini come una giraffa, ho visto la tua faccia in onda su YouTube. Domani io mi impicco salendo sulla gru e troverai i miei peli sulla tua bajur. Io domani salgo su, la la la.